questa giungla, la città che si colora di un suono caldo e amaro, rispecchia la mia ombra, voglia, sudo e guardo dentro vuoto. È un fiore che risboccia, è un fiore che rinasce dentro me, dentro me, dentro me, dentro me, dentro me. Il silenzio chiede spazio sotto questo cielo spento, è uno spettro del passato che ritorna nel mio tempo. Calma, tempo, calma, tempo, calma, hey. È il cuore che ricorda, è il cuore che rinasce dentro me, dentro me, dentro me, dentro me, te sei dentro di me. Caldo mi disturba, vola verso il 2000, incontro il mio pensiero vuoto, sudo e guardo dentro.